Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Versilia 1947, la strage del tombolo. Queste le brevi righe di un'agenzia che nel 1947 fecero conoscere il degrado morale in cui versava una delle zone più violente e misere d'Italia, la Pineta del Tombolo in Versilia. Nei primi anni del dopoguerra, l'esercito americano aveva trasformato il tombolo in un immenso deposito di materiali militari. C'erano montagne di copertoni per autocarri, casse di penicillina, pietre focaie, ferri chirurgici, quintali di molari e incisivi di porcellana, oltre a zucchero, cioccolata e alimenti di ogni genere. Tentati da tutto questo ben di Dio, nel giro di poche settimane, in questa zona arrivarono trafficanti, prostitute, disertori, fuorilegge, tutti attratti dal miraggio dei facili guadagni con il mercato nero. Con la complicità di interi reparti americani, predarono materiali per milioni di dollari. Per 3 anni il tombolo fu inferno e paradiso, abbondanza e miseria. Molti si arricchirono, molte ragazze persero la propria dignità. Il paese intero mostrò il suo volto peggiore. La tecnica dei furti era sempre la stessa. Durante la notte i trafficanti andavano a prelevare i camion con la merce da portare via, mentre le sentinelle americane fingevano di respingerli sparando contro di loro sventagliati di mitra. Naturalmente sparavano in aria e altrettanto facevano i ladri italiani fingendo di rispondere al fuoco. La cosa che fece insospettire un detective della MP, la polizia militare, è che in tante sparatorie nessuno era mai rimasto ferito, mai una goccia di sangue. Inoltre i furti avvenivano sempre quando erano di guardia le stesse sentinelle. La Militar Police cominciò allora a tenere sotto controllo alcuni militari, tra cui anche Thomas Gusick. Non ci volle molto per Gusick e i suoi compagni capire di essere stati scoperti. Ma ebbero un'idea. Per crearsi un alibi, decisero di eliminare i complici italiani, gli unici che avrebbero potuto testimoniare contro di loro. Combinarono la solita operazione notturna, ma questa volta, invece che sparare alla luna, Gusick sparò per uccidere tutti e 5 gli italiani. Ne colpì a morte però soltanto 2. Gli altri 3 si salvarono e riuscirono a fuggire. Anche quell'incidente fu archiviato dalle autorità americane con un nulla di fatto, perché i ladri avevano varcato il recinto del deposito e i cartelli apposti all'esterno erano fin troppo chiari. Dicevano: chiunque passi questo recinto verrà fucilato. Gusick pensò di averla fatta franca, ma non aveva considerato la rabbia dei compagni dei 2 italiani uccisi. Questi, per vendicarsi del suo tradimento, denunciarono a un maresciallo italiano la complicità degli americani nei furti e raccontarono accuratamente come avvenivano. L'inchiesta della Militar Police accertò la veridicità della loro denuncia. I 14 militari statunitensi finirono sotto corte marziale e condannati a pene variabili dai 6 mesi a 2 anni per aver sottratto ai contribuenti americani merci per un valore di $1.700.000 di quel tempo. A Thomas Gusick, invece, fu inflitta la pena ai lavori forzati a vita per il duplice omicidio premeditato. Dopo questo grave episodio di cronaca, le autorità americane decisero di chiudere definitivamente la base del tombolo. Nel dicembre di quello stesso anno, il 1947, le truppe della divisione Buffalo, costituite quasi esclusivamente da militari di colore, ammainarono la bandiera e tornarono finalmente in patria. Ma il degrado morale di quegli anni bollò come un marchio d'infamia tutto un popolo, rimanendo impresso in molti degli americani della base. Uno di loro, diventato un famoso giornalista del New York Times, tempo dopo, a un collega che era stato destinato alla redazione di Roma, consigliò di farsi trasferire in un altro paese, perché, disse, tutto in Italia è corruzione, è disordine, è confusione, è un paese inabitabile. Vito Bruschini, in libreria con Vallanzasca, editore Newton Compton, 384 pagine, €9,90.